Buongiorno a tutti, mi presento, sono Davide. Nella mia attività di scrittore, diciamo, io seguo due linee narrative principali. Nella prima racconto per filo e per segno la mia vita sentimentale, lì la gente ride, ecco. Nella seconda invece racconto la mia vita di tutti i giorni, e quello è diverso, è una sorta di teatro sociale, le persone ne escono molto sollevate e dicono vabbè dai, io stiamo male ma non quanto lui, ecco. Quindi da questo punto di vista non ci sarà molto da ridere, ecco. Io non sono un comico, no, veramente, perché sapete, il comico è quello che per far ridere schiaccia la buccia di banana, inciampa e lì la gente ride, ecco. Io no, io sono proprio la banana. Da questo punto di vista si può dire che il comico è il fato, il destino, oppure lui, il grande assente, Dio. E sempre da questo punto di vista si può dire che io ci credo nel fato, nel destino, o in Dio, nella misura in cui spero sempre che prima o poi, magari su di me o su qualche altro sfigato banana inciampi e si rompa l'osso del collo. Ecco, io diciamo che mi limito a subire gli oltraggi del destino, incapace di armarmi contro un mare di affanni e contrastandoli porre fine a tutto. Questo non l'ho detto io, l'ha detto Amleto, ecco. Però a differenza di Amleto, però, per me le scelte si riducono a non essere o non essere. È quasi una constatazione, ma non è una constatazione amichevole. Diciamo che se la vita è un incidente, la mia è una constatazione non amichevole con lui, diciamo, con il principale, con Dio. In realtà non va così male, non va così male. Ultimamente mi sono pure fidanzato con una ragazza vera, dico, non è un poster. Lei è carinissima. Dunque, noi ci siamo conosciuti in tram, e lei l'altro giorno mi ha detto: Davide, io quel giorno sono salita sul tram e davanti a me ho visto il ragazzo più bello che avessi mai visto, e a fianco a lui c'era il suo tutù, poi lui è sceso, abbiamo cominciato a parlare io e te, ecco. L'unico problema vero è che io nelle relazioni sono veramente inconcludente, ecco. Se dovessi dirvelo attraverso un'immagine, io sono più inconcludente di una rissa fra pancabestia. Non so se avete mai visto una rissa fra pancabestia. Di solito c'è uno che va dall'altro e fa vieni qua, e l'altro vieni qua tu, e poi cadono, ecco. Questo succede dentro di me quando cerco di approcciarmi a una ragazza. Ci sono due pancabestia che litigano e poi cadono. Ogni tanto ho anche la stessa espressione facciale, e io lo so che magari si può pensare che sia colpa della mia ex, no? C'è sempre stata una ex o un ex nella vita di ognuno di noi, dal quale sono cominciati tutti i traumi, ecco. Io no, io, ecco, io l'ho superata, ecco. Io ormai penso della mia ex quello che normalmente la gente pensa di, che so, Venezia, ecco. È bella ma non ci vivrei, adesso con la mia ragazza adesso chiaramente è tutto diverso, va tutto molto meglio, abbiamo un rapporto molto più equilibrato, abbiamo un rapporto perfettamente alla pari, lo ha deciso lei. Non è neanche questo il problema, ma sapete, capita spesso di sentirsi vuoti nella vita, no? Capita. Ma solo quando stai con qualcuno ti rendi conto di esserlo veramente. E con questo veniamo al tema dello spettacolo, non le relazioni personali, no, quello è il tema per un altro spettacolo che ci sarà, mi pare, la prossima settimana, che si intitola Che cosa ti ha unito due persone? E sotto c'è scritto in piccolo: a parte il masochismo, punto di domanda, è dello spettacolo della mia ragazza. No, il tema della serata, il tema dello spettacolo è il vuoto, cioè la totale inconsistenza attorno alla quale spesso è racchiuso il nostro corpo, l'identità, l'io o il sé. Il sé è il concetto più allargato di io. State pensando che culo. Dunque, l'identità, ecco, un vuoto che molti cercano di riempire attraverso una lunga ed estenuante ricerca. Ricerca di che cosa? La famosa ricerca di se stessi. Ed è un po' paradossale la ricerca di se stessi, perché insomma si parte da un contenitore vuoto per andare alla ricerca di una cosa che però è proprio quella di cui si partiva e di cui si sa già il contenuto, per cui è un po' come una fede nel principio dei vasi comunicanti, ma in cui si sa già che i due recipienti sono vuoti, non funziona. E questo mi ha motivato ma partiamo dal titolo. Perché questa serata, questo spettacolo si chiama Stendhal Comedy? Beh, come sapete, i protagonisti dei racconti di Stendhal sono tutti dei giovani virili. E quindi no, non è questo il motivo, e non è neanche per la sindrome di Stendhal, che come sapete è quell'affezione nota anche come sindrome di Firenze, in cui tu vedi un'opera d'arte talmente bella che stai male, hai la nausea, non riesci a respirare, ti gira la testa. È una sindrome che comunque pare non si sia più presentata più o meno dalla nascita dell'arte moderna. Poi gente come Pollock ha proprio infierito sul cadavere della povera sindrome, e poi hanno avvolto la carcassa in un telo ed è nata la sindone di Stendhal. Ecco, questa è la prima battuta che avevo giurato di non fare oggi. Per inciso, voi mi sentirete per tutto, insomma, per un po' parlare di arte, vorrei chiarire però che la mia opinione riguardo all'arte non ha nessun valore, ecco. Io non mi permetterei mai di esprimere un giudizio sull'arte, figuriamoci, non mi permetterei mai, cascasse il Mondrian. E questa è la seconda battuta che avevo giurato di non fare, tra un po' Federico mi manderà via, però ecco. Dunque, no, io sul serio ho cambiato un sacco il mio modo di approcciarmi al pubblico, perché nell'ultimo spettacolo che ho fatto la gente si è lamentata che in sala non ci fosse niente da lanciarmi, per cui no, a parte gli scherzi, io ho fatto tutto quello che bisognava fare per fare un reading serio, mi sono portato anche dei fogli bianchi in più da lanciare. Non so se avete presente che c'è sempre quello lì nei reading che nello spasmo della lettura lancia il foglio, ma appoggialo là, c'è il leggio, appoggialo, lo deve lanciare. Ecco, questo era il prologo, che di solito serve appunto a presentare i personaggi. A me piacerebbe fare sempre così, fare solo dei lunghi prologhi, mi sembra più coerente con una certa idea di esistenza, e questo per due motivi. Il primo è che mi piace che tutto sia una continua introduzione a quello che si sta per dire, no? E prima anche la scienza aveva questa cautela, si diceva discorso intorno alle scienze naturali, oppure trattato intorno all'origine della specie. Perché? Perché loro sapevano che di una cosa, per com'è, non si poteva parlare, ci si poteva solo girare attorno. E questo è un motivo. Il secondo motivo è che, sapete, Charlie Chaplin diceva che la vita è uno spettacolo in cui non ci sono le prove. Ecco, io non sono d'accordo. Io penso che la vita siano solo le prove. Uno aspetta tutta la vita e lo spettacolo non arriva mai. Però, siccome il pubblico viene a teatro, o in questo caso ascolta, e ha il diritto di sentirsi dire c'era una volta, allora diciamolo, c'era una volta. Il 1838 è stato l'anno più brutto della vita di Stendhal. E dove l'ha passato? A Roma. In questa città dove, cito testualmente, nulla sembra mai accadere, sono cambiate le cose, e dove sempre, cito testualmente, lui si annoiava e vegetava. Cioè, in realtà non è proprio così. Lui in realtà era pendolare tra Roma e Civitavecchia. Pensate al travaglio interiore di questa persona. Cioè, che ad oggi è una delle tratte più tristi che puoi fare. Ecco, e lui, condannato a vivere in se stesso, in questo anno tribolato, lontano dai salotti parigini, la sua attenzione poteva rivolgersi solo su se stesso. E lì ha scritto i Souvenirs d'Egotisme, che non li ho letti manco io, però anche lui li ha lasciati incompiuti, per cui insomma... ecco, e quindi cosa ci troviamo? Ci troviamo di fronte ad un anno del pensiero costantemente rivolto su se stesso, un anno della coscienza su se stessa. E mi sembrava uno spunto interessante per iniziare un discorso sull'io e sul sé, perché altrimenti da dove lo prendi? È molto complicato, come si fa? Cioè, tradizionalmente diciamo che per arrivare all'io esistono due strade principali, che non è che siano proprio ben messe, ecco, sono strade bianche, piene di buche. Ecco, diciamo che la strada ideale per arrivare all'io ve la dovete immaginare come la Salerno-Reggio Calabria, cioè, insomma, ci sono i lavori da una vita, la fila si crea sempre sugli stessi punti e tra una cosa e l'altra non arrivi più, ecco. Però, insomma, ci sono due vie caratteristiche, tradizionalmente, nella storia della filosofia, nella storia del pensiero, ecco. Da un lato... L'io dovrebbe essere quella cosa che ci caratterizza come quella cosa lì e non un'altra, come se ci fosse una piccola perlina dentro ognuno di noi, no? Un piccolo tesoro che è la nostra interiorità, ed è incredibile come questa perlina resti sempre limpida. Oppure possiamo considerarci come l'altra strada e considerarci come il frutto di una serie di fattori esterni, insomma. In questo caso la nostra identità potrebbe essere appunto un costrutto sociale, oppure l'identità potrebbe essere una capacità di accogliere le cose esterne. Pensate che bello, l'identità, una capacità di accogliere le cose esterne. Pensate quanto sia lontano questa idea da Salvini, per dire, no? Ecco, oppure ancora nel credere che queste cose contribuiscono in maniera sostanziale a formarci, edificarci, da lì il termine edificante. Ho fatto una lettura, è stata edificante. Perché? Perché ti costruisce dentro una piccola casetta. Ecco, tenete a mente questa casetta. No, io ho sempre trovato riduttive o estremamente estese entrambe, perché il sé appunto è un concetto più allargato o più semplice, include tutto e nulla, diciamo. Ma sapete come funziona, no? La nostra mente, intendo. Tranquilli, questo è il primo spettacolo in cui si parla di psicologia dove l'intento di far ridere è dichiarato. Voi direte, vabbè, Freud ce l'ha messa tutto, ho capito, però l'hanno preso sul serio. Oppure non so, Lacan, non so se avete presente Lacan, cioè quello sta male, cioè, te lo immagini proprio in giro che ferma la gente, come ti senti? Ma chi è lei, scusi? Secondo me è l'invidia del pene. Ma guardi, io ce l'ho il pene. Allora hai paura di perderlo. Ma tu sei male. Oppure no, sul serio, per organizzare questa serata sono stato molto in difficoltà, perché come si fa a ridurre l'immensa complessità dell'individuo in un monologo di 50 minuti, insomma, una persona con tutte le sue sfaccettature, ecco. Come si dice, per conoscere una persona non basta una vita, infatti bastano 5 minuti, però solo per stasera, solo per oggi pomeriggio, facciamo finta di considerare l'altro, dico l'altro, il sé, come un infinito inesauribile, no? Ecco, esiste un io legato a differenti ruoli che noi prendiamo a seconda di chi ci troviamo di fronte. Per esempio, che ne so, per i nipoti siamo gli zii, per gli zii siamo i nipoti, per i genitori vabbè, per i genitori siamo un peso, però ecco, la nostra identità da un lato è un costrutto sociale, gli studi, l'orientamento politico, il lavoro che facciamo, c'è chi pensa di identificare l'altro attraverso l'orientamento sessuale, che io dico a quel punto vabbè, meglio l'ascendente, insomma, più esiste un legame con il nostro paese, per dire, il legame che ho io con il mio paese in questo periodo con l'Italia è molto simile a quando da piccolo facevo i viaggi in macchina e ogni due minuti chiedevo siamo arrivati? Ma siamo arrivati? Ecco, fra poco arriviamo. Insomma, è complicato, tantissimi ruoli, e tuttavia ogni volta che cerchiamo di descrivere quello che siamo, quello che riteniamo di essere, ci troviamo, se siamo sinceri di fronte ad un vuoto, se siamo molto sinceri di fronte a un film dell'orrore, se invece decidiamo di mentire, ci troviamo sempre di fronte a un film dell'orrore, però in cui alla fine ci salviamo solo noi. Ecco, come si fa? Ecco, insomma, si va alla ricerca di sé, e ogni persona che intraprende questa ricerca segue delle vie diverse, si va dalle più superficiali alle più sofisticate, diciamo, si segue come una scala di complessità. Ogni persona nel tentativo di caratterizzarsi segue una scala di complessità. Si parte da quelli che cercano se stessi leggendo Paolo Coelho, che secondo me sono proprio il gradino più basso della categoria, cioè, non fatemi dire, ma meglio la destra estrema a quel punto, cioè, poi certo uno della destra estrema che legge Coelho sarebbe proprio il massimo, uno scontro fra titani, no? Vi immaginate davvero uno di estrema destra che legge Coelho, come sarebbe? Posso farlo solo per... Provo a farlo. Secondo me sarebbe tipo così: faccio il cammino di Santiago quando tu non ti faccio un culo così. ecco, no, sul serio, è interessante, cioè, di cosa ride uno di estrema destra? Che cos'è che gli fa ridere? Ma soprattutto che c'ha da ridere uno di estrema destra, vabbè, comunque. Ma poi dico, cerchi te stesso leggendo Paolo Coelho, no? Io dico, ma ammetti pure che ti trovi, cioè, dubito che quello che trovi sarà un candidato al Nobel, no? Ma poi, no, sul serio, no, perché le persone dicono, ma perché te la prendi sempre con Paolo Coelho, ma basta con questa cosa di Paolo Coelho, cioè, questo vende milioni di copie, ma io vi invito ad andare a vedere gli indici di vendita, cioè, milioni di copie per scrivere frasi del tipo voglio tornare in un posto in cui non sono mai stato, non significa niente, non significa niente voglio tornare in un posto in cui non sono mai stato, cioè, io l'unica persona che conosco che deve ancora tornare da un posto in cui non è mai stato è un mio amico che ha preso una droga chimica un po' di anni fa e non è mai tornato del tutto, ecco, cioè, diciamo, tu gli chiedi come stai e lui sei passato all'estrema destra, ecco. Ma poi Paolo Coelho, queste frasi assurde, ma non lo so, cioè, a quel punto da una porta si entra ma si esce pure, vabbè, cazzo, cioè, ma non è che tutte le cose che scrivi si possono pubblicare, allora io registro mio babbo ubriaco e pubblico un libro, non è così che funziona. Secondo me prima Coelho scriveva per i Baci Perugina, poi qualcuno gli ha detto Paolo, ma perché non metti in fila tutti i fogliettini, è nato il primo romanzo, Il Cammino di Santiago. Poi vabbè, ecco, questo è un esempio banale per ritornare al discorso, però un altro esempio banale per dire sono quelli che cercano se stessi attraverso le mode o gli interessi, non so, per esempio, ci avete fatto caso che a Roma tutti quanti scalano o fanno fotografia? Tutti quanti. Tu che fai? Io scalo! Oh! La vita è un dirupo! Oh, vabbè. Scusami, e tu che fai? Io faccio fotografia! Oh! La vita è un dirupo! Vabbè, è sul fatto che la vita è un dirupo. Andiamo. Poi ci sono quelli che fanno fotografie mentre scalano. Ci sono quelli che fanno fotografie allo scalo, a San Lorenzo. Sai, la bellezza urbana, ma basta. Ma, cioè, la bellezza è tutto tranne che urbana. Ma vuoi mettere la busta che vola nel vento? Non è poetica la busta che vola nel vento. Ecco, questo è un esempio banale, però dovete ammettere che è bizzarro questo nostro tentativo di distinguerci in maniera omogenea. È un discorso complicato, è inestricabile e non sarò certo io a chiarirlo, posso essere l'ultimo di quelli che può trovare una soluzione a questo. Ecco, tuttavia però trovo che per quanto possiamo essere complicati noi, non saremo mai così complicati quanto il discorso che facciamo su di noi. E questo credo che sia dovuto a una sorta di istinto di sopravvivenza che ci porta a sovrainterpretare il nulla. Cioè, come quando guardi un quadro di arte contemporanea, no? Tante volte al museo, cioè tu vedi, che ne so, un flipper con sopra una capra e dici, ah beh, certo, vedi, certo, e quella è la coscienza moderna. Non è la coscienza moderna, è un flipper con sopra una capra. Ma significante è significato il per sé, l'in sé, ma basta! Oddio, scusatemi, ho fatto un esempio sbagliato, perché in effetti, pensandoci adesso, un flipper con sopra una capra è la coscienza moderna. No, che poi eppure sovrainterpretiamo, no? Sovrainterpretiamo di continuo, cioè come in certi spettacoli di teatro di ricerca. Cioè, noi sovrainterpretiamo noi stessi come certi spettacoli di teatro di ricerca, cioè, che ne so, Ma poi come gli scrivono questi spettacoli di teatro di ricerca, no? Io me lo sono chiesto. Secondo me ci sono tipo due registi che devono farsi venire un'idea, e uno dice all'altro, non sanno come risolvere una scena, uno dice all'altro: ce l'ho, facciamo passare un cane zoppo sul fondale. E l'altro: ma no, mi sa che non funziona. Facciamo passare un fondale su un cane zoppo. Ma guarda, mi sa che non funziona neanche questo. Facciamo passare uno zoppo sul fondale del cane. È un'idea grandiosa. Ecco, è così. Ecco, ma com'è nata questa sovrainterpretazione? Che cos'è l'io? A cosa serve l'io? Ma soprattutto, fino a che punto è possibile una teoria sull'io? A pagina 18 di uno dei manuali di psicologia più usati nelle nostre università, gli autori sono così onesti da chiedersi a cosa serve una teoria della personalità. È proprio così il capitolo, inizia proprio così il titolo del capitolo: a cosa serve una teoria della personalità? E dopo ci sono due pagine vuote. No, magari no, dopo segue una teoria espressa con un linguaggio scientifico, ma non scientifico intorno a, no, proprio scientifico in base alla quale gli autori affermano che esiste qualcosa che possiamo con certezza assoluta chiamare la teoria della compattezza dell'individuo. Un individuo compatto, che cosa vi fa pensare? A me fa pensare compatto come il budino del Todis dopo tre giorni, o il latte del Todis dopo tre giorni, o il purè del Todis dopo tre giorni. Ma a parte questo, i problemi di questa teoria sono due: che qualsiasi cosa siamo la saremo tra tre giorni, e che qualsiasi cosa siamo la saremo del Todis. Ecco, no, io insomma mi sono allarmato perché mi allarmo sempre quando sento parlare con sicurezza assoluta dell'individuo, e insomma, a nome delle facoltà umanistiche, diciamo, questa cosa ha risvegliato in me un certo scetticismo. Ma a me gli scettici sono sempre stati simpatici, perché il loro motto è tipo: tutto è vero fino a una certa. E l'ho sempre trovato molto rincuorante, perché prima della nascita della coscienza moderna, prima del cristianesimo, per anni e anni, generazioni di scettici sono andati avanti nelle loro ricerche partendo da due assunti fondamentali: che non si potesse dire niente su niente, perché niente è vero, e che però se uno dice che niente è vero, allora non è vero neanche che niente è vero, che significa vale tutto, liberi tutti. È vero una cosa, il contrario è possibile, che vi innamorate, è dura, vale tutto, non si può essere sicuri di niente, per cui bisogna sospendere il giudizio, che non significa rinunciare a tutto, cioè non è che dice fa freddo fuori, sospendo il giudizio, no, oppure hai mangiato oggi, sospendo il giudizio, no, non rinunciare a tutto, ma solo alla pretesa di esprimere un giudizio assoluto su qualcosa. Tanto basta, diremmo noi. Tanto più, cioè, questo continuo citofonare alla porta della verità. Basta, tanto non apre, ecco. Tanto più che, come diceva il mio scrittore preferito, qualsiasi cosa siamo, la siamo sempre più o meno, ecco. Mo' qui mi dovete seguire ancora due minuti, poi tra poco peggiora lo spettacolo. Però, ecco, tradizionalmente la coscienza moderna nasce con un giudizio, ecco. Penso, quindi sono. Posso dubitare di tutto tranne che del fatto che sto dubitando. E allora cosa ci troviamo? Ci troviamo di fronte a un primato assoluto del pensiero razionale su tutto quello che ci circonda. E da lì è nata la concezione che è in noi, e soprattutto nel pensiero di noi su di noi, che dobbiamo cercare la risposta su di noi. Ma qualcuno più avanti farà notare che, timidamente però, che pensare è un po' come giudicare. E qualcun altro farà notare ancora più avanti che il pensiero però non ci porta mai ad affermare qualcosa, ma al contrario si apre su tutta una serie di domande nelle quali proprio questo qualcosa viene messo in questione. In pratica il pensiero è come un criticone, di quelli che sai che in una discussione che prendono sempre il partito opposto al tuo, che anche se gli dai ragione continuano, perché non vuole discutere, non vuole neanche avere ragione, vuole solo litigare. Il pensiero nel quale noi ricerchiamo la risposta su di noi è un coatto delle medie. Non so come erano da voi, da noi erano così, cioè ti fermavano a ricreazione: scusa, mi stai guardando male? Ma no, guarda, veramente io... ma non dirmelo così, ma non ho detto nulla. Cosa? Mia mamma! Ecco, ed è dentro di noi. È dentro di noi, l'assassino ha le chiavi di casa, anzi è proprio casa sua, vi ricordate la casetta prima edificante? Ecco, la coscienza è come un'impresa edile che ha vinto una gara d'appalto in maniera illecita e continua a costruire su di noi che siamo però un terreno non edificabile. In pratica l'inconscio è l'aquila e l'io sono le case che ha costruito Bertolaso, chi per lui dice durano, sì, vedi fra 10 anni. Questo, tra parentesi, è il giudizio dell'inconscio su tutto quello che ci dice la coscienza. Cioè, che ne so, la coscienza ci dice: la panda nuova è più bella della vecchia, sì, vedi fra 10 anni. Oppure bello sto tatuaggio, mi piacerà per sempre, ma c'ha un significato, sì, vedi fra 10 anni. Oppure: oh, a me le canne non me vanno niente. Oppure: oh, l'acqua di Roma è sanissima, tu sei quello delle canne di prima, vedi fra 5 anni, ecco. E questo è un lato, insomma, questo primato del pensiero giudicante contiguo, no? questa impresa edile, questo criticone, questo coatto delle medie, la coscienza è un lato, e dall'altra vi ricordate quel signore con la barba simpatico che andava così tanto di moda tempo fa, che scriveva quelle frasi effetto: uno spettro si aggira per l'Europa, dai, lui il grandissimo Marx, ecco. Marx si era reso conto di questo, di questa cosa bizzarra, che se uno lavora per 17 ore al giorno un po' si aliena, pazzesco. No, in realtà non è proprio così, non è proprio così, è che tu non ti riconosci nell'oggetto fatto, non è proprio così, però ecco, secondo me non è più questo il nostro problema, cioè non è più l'alienazione da lavoro il nostro problema, un po' perché il lavoro non ce l'abbiamo, per cui non è che ci possiamo alienare tanto, e un po' perché secondo me noi siamo alienati nel tempo libero. Cioè la nostra alienazione è un'alienazione del tempo libero, è un po' un'incapacità di gestire il tempo libero. C'era un amico, c'era lo zio di una mia amica, che diceva che lui passava tutto il suo tempo libero tra il canale 15 e il canale 27 di Sky, ecco, qualcosa del genere, ecco. Quindi da un lato c'è questo primato del pensiero giudicante continuo, questo coatto delle medie, e dall'altra c'è la nostra incapacità di gestire il tempo libero, e sono amici, vanno sempre in coppia, si rafforzano l'un l'altro, insieme sono come i gemellini di Oli e Benji, ti fanno un culo così, dice: ma io c'ho la difesa, sì, vedi fra 10 anni. Ora, giusto per continuare a interrogarci stasera sulla natura di questa messa in scena, in tutti i sensi, diciamo, ecco, mettiamo di prendere dalla coscienza, da questo criticone che abbiamo detto, solo 4 giudizi: il giudizio di sé sugli altri, o degli altri su di sé, il giudizio di sé su se stessi, il giudizio di sé sulla vita, da cui dipende in gran parte il giudizio di sé su lui, il grande assente, Dio, ecco, il famoso giudizio universale, ecco. 4 giudizi, come le collezioni di vestiti, autunno, inverno, primavera, estate, ecco, però di riflessioni. Come con le stagioni cambia la natura del vestito che si porta, in teoria con le riflessioni, con i giudizi, dovrebbe cambiare anche la natura del sé, cambiando le riflessioni. Anzi, cosa succederebbe se veramente attaccassimo ognuno di questi 4 giudizi ad una stagione? Autunno, inverno, primavera, estate. In questo caso ci troveremo di fronte ad un anno. A un anno del pensiero su se stesso. A un anno non mio, per forza, a un anno per molti versi simile a quello di, che so, uno a caso, Stendhal. Anzi, immaginiamoci un anno simile senza Stendhal. Ovviamente, ecco, un anno intero, però sarebbe troppo da fare stasera, un anno intero del pensiero su se stesso. Allora immaginiamo di prendere solo il tempo perso, cioè questa incapacità di gestire il tempo libero, in un anno diviso in 4 stagioni, uno per ogni giudizio della coscienza. Anche così sarebbe troppo da fare. Allora immaginiamo di prendere un anno diviso in 4 stagioni, uno per ogni giudizio della coscienza, e passato in 3 luoghi fondamentali, che sono un citofono, il mio amico Valerio, che in questo caso non parlerà, e camera mia. Ecco. Abbiamo un anno diviso in 4 stagioni, diviso solo del tempo perso, è passato a un citofono, camera del mio amico Valerio e camera mia. Ora, secondo me, se facessimo così, ci troveremmo di fronte ad un anno più o meno così. Madonna, questa è la trovata registica per dire che è estate. Fa un caldo, mamma mia, ma manco ti sei preparato il discorso, qualcosa da dire, che so, ma poi in canottiera, ma dai, ma ti puoi presentare in canottiera, ma mica stiamo in California, che poi iniziano quei discorsi, ma perché sei venuto in canottiera, perché fa caldo, vabbè, senti, allora io entro e dico, senti, io, no, iniziare con senti io proprio, vabbè. Allora entro e dico, guarda, io, ma cosa deve guardare che sei venuto in canottiera? E lì inizia, perché sei venuto in canottiera? Ma non gliene frega niente a nessuno della canottiera. Vabbè, allora basta, allora io entro e dico, senti, guarda, sono in canottiera. Vabbè, suono. Niente, riproviamo. Niente, non apre. Vabbè, che faccio? Vabbè, vado da Valerio. No, dai, che poi iniziano quei discorsi. Come stai? Tutto sommato, ma perché devi sommare tutto? Ma poi cosa deve sommare? Cioè, qui non succede nulla. Vabbè, dai, basta, vado da Valerio. Grande Valerio, grande, come stai? Per fortuna che ci sei tu nel mondo, guarda, ti disturbo? Come va? Tutto sommato, infatti, no? No, guarda, Valerio, io ho capito una cosa importante oggi. Ho capito una cosa fondamentale. Il sesso è importante solo se non lo fai mai. No, lo so. Lo so che arrivo. No, lo so, arrivo e ti parlo sempre di me, sono logorroico. No, oggi no. Oggi sono venuto apposta per sapere come stai tu. No, veramente, ti ascolto. No, davvero? Ma sto ascoltando. Ho capito, mi giro, ma sto ascoltando. Non è che. No, giuro che non ti interrompo. Giuro che non ti interrompo, giuro. Ma sai cosa stavo pensando? Che io mi ritrovo sempre molto più volentieri a riconoscermi nelle cose che sono successe agli altri piuttosto che a quelle che sono successe a me. Ecco, per quanto queste possano essere lontane da me, non saranno mai così lontane quanto le cose successe a me prima, anche poco tempo prima. Cioè, la totale estraneità rispetto alle cose che mi riguardano, alle volte è veramente. Io sono estraneo ai fatti, come nei processi, sono estraneo ai fatti. Dice, dove eri? Ma chi c'era con te? Ma sono d'accordo. Ma poi certo è incredibile quanto possono essere lontane tra loro le opinioni che due persone hanno della stessa persona, no? Che so, non lo so, prendi un a caso Stendhal, ecco. Victor Hugo, quando l'ha conosciuto, l'ha definito un imbecille senza nessun talento letterario. È terribile. Ma no, sbagliamo noi, fidati. No, sì, perché secondo me ognuno di noi dovrebbe mostrare agli altri solo un 15-20% di se stessi. Così gli altri pensano, vedi la punta dell'iceberg, in realtà sotto non c'è un cazzo. No, perché se continuiamo a fare così, poi le persone si stancano, ci scansano, poi si inventano delle scuse per evitarci. C'hai da fare? Vabbè. No, ma no, figurati, stavo andando. Dici la canottiera? No, senti, lascia perdere. Ciao. Ma perché in camera mia c'è sempre questa puzza? Cioè, veramente, tu entri, sembra che ci sia Rosso Malpelo che cerca il padre con... Vabbè, comunque mi sento più vuoto di prima, ecco, perché dire agli altri le nostre idee, quello che pensiamo, non sempre produce dei risultati positivi. Non so, pensate per esempio, cioè, se l'avesse fatto con me Kafka, per dire. Davide! Ce l'ho, ce l'ho. Ho l'idea per il nuovo romanzo. Tieniti, tieniti. È la storia di uno che una mattina si sveglia ed è uno scarafaggio. Bello, Ma, guarda, cioè, non capisco proprio. Con le antenne? Ma cosa dici, Kafka? Oppure, ecco, mi piacerebbe essere stato il primo in qualche occasione. Ecco, perché non sono stato il primo? Ecco, io avrei pagato per essere il primo a cui Fontana parlava del suo progetto artistico. Davide! Ce l'ho, ce l'ho. Tieniti, Tieniti. Oh, parli uguale a Kafka, Fontana. Ce l'ho, senti. Allora, ho pensato, invece di dipingerli i quadri, coi colori... Invece di dipingerli, li taglio. Ma, guarda, non capisco... Cioè, perché? Perché bello, bello. Con le antenne? Ma che cazzo dici, Fontana? Ecco, ma anche quando lo facciamo, anche quando lo diciamo agli altri quello che pensiamo, no? Come facciamo a essere sicuri di essere capiti? Per dire, Dario Fo. Buon'anima. Cioè, ha riscoperto il Gramlò, la lingua universale, proprio per essere capito. Cioè, lui era convinto che con il Gramlò si sarebbe sempre fatto capire da tutti in tutto il mondo. Ecco, io mi sono immaginato la scena di Dario Fo che va a ordinarsi un caffè al bar in Gramlò. Secondo me andrebbe più o meno così. Dunque, c'è il barista, entra Dario Fo, il barista gli fa desidera. Baciucia! Guardi, non capisco proprio che cosa vuole dire, cioè non... scusi, ma è uno scherzo? Guardi, ma signor Fo si sta mettendo in ridicolo di fronte a tutti, ma io non capisco perché fa così, ma poi ogni giorno, e lui era un premio Nobel. Pensate quante possibilità abbiamo noi di essere capiti. Pesante, ah, ma c'è un vento oggi, ush, l'autunno è così, ush, un vento pazzesco, ush, ush. Speriamo che oggi qualcuno mi apra. Ah, salve, salve, sì, sì, sono Davide, no, stavo cercando... Ah, no, non sapevo nulla. No, ma si figuri. Ma si immagini. No, niente, si figuri. No, grazie, grazie, va bene, salve, buonasera, salve, salve, salve. Questo è Valerio, questo è Valerio, è colpa di Valerio. Dice, no, dai, passaci, ci devi passare. Ecco, io adesso non ci vado da Valerio. Io, qualsiasi cosa succeda, io oggi da Valerio non ci vado. Ciao Valerio. Valerio, io vorrei tornare al punto della mia vita in cui pensavo di essere solo sfortunato. Tu come stai? Basta. Insomma, è tutto sommato, e fatti due conti. La devi finire con questa mentalità da contabile. La vita non è matematica, le relazioni non sono una proprietà commutativa. Scambiando l'ordine degli addendi, il risultato cambia. E certo, ad esempio, non è la stessa cosa se ti lasci e poi ti tradisci, o se ti tradisci e poi ti lasci, perché in un caso ti lasci e nell'altro ti tradisci. Cambia, ecco. Che poi questa cosa di cambiare, guarda, cambiano tutti, cioè, ma poi quelli che cambiano sono proprio una categoria a sé, ma poi tutti in meglio. Ce ne fosse mai stato uno che mi dicesse, sai, sono cambiato, prima stavo bene, mo sto una merda, tutti in meglio. Cambiano, le persone cambiano, ci sono quelli che cambiano quando viaggiano. Sai, ho fatto un viaggio, sono molto cambiato, ho capito delle cose. Ah, sì? Dove sei stato? Una settimana in Sicilia. No, scusami, toglimi una curiosità, cioè, per capire, che cosa hai capito? Che la vita è un dirupo. Guarda Valerio, se c'è qualcosa di peggio di quelli che cambiano, sono quelli che sono fatti così. Ma io sono fatto così. Io mi sono fatto così. Ma che significa? Cioè, la società civile si basa sul fatto che noi non siamo fatti così. Altrimenti, che ne so, io vado allo zoo, piscio su un koala e dice, ma scusi, ma cosa sta facendo? Io sono fatto così, io sono fatto così. Ho capito, ma c'è la gente, i bambini. Vabbè. Di questa battuta c'è anche una variante del mio amico Marco Cecotti, la posso fare? Dunque, io vado allo zoo. Piscio su un koala e il koala mi fa: ma cosa sta facendo? Ah, un koala che parla! Poi ci sono quelli che ti devono dire che stanno bene. Insopportabili. Sto molto bene io, eh! No, ma si sente, no, in effetti. No, guarda, se c'è qualcosa di peggio di... No, Valerio, scusami, mi dispiace, ma io non lavoro su me stesso. No, io non lavoro su me stesso, ma è molto semplice, perché non è un lavoro. Non si percepisce alcuno stipendio. Uno al massimo può fare uno stage non retribuito su se stesso. Io l'ho fatto. C'era un ambiente orribile. Mi hanno fatto mobbing. È stato controproducente per l'azienda, però voi direte, è l'unico stage a tempo indeterminato. Sono d'accordo. Oppure ci sono quelli che sono da sempre, da quando li conosci, in un periodo di transizione. Sono in un periodo di transizione, sai, sto smussando gli angoli. Siamo tutti in un periodo di transizione, si va dal niente al niente. Cercate almeno di godervi il paesaggio, dico io. Valerio, caro bello, madonna, guarda, tu stai qui, mi sopporti, ma quanto ti voglio bene. Ma per carità, ma secondo te finiremo anche noi così? Ma che ne so, a parlare solo di aloe. Sto male, prova l'aloe. Vabbè. Anche di questa c'è la variante, fa così. Sto male. Prova l'aloe. La natura ha fatto tanto per noi, Sì, ma io sto bene, capito? Vabbè. Oppure, che ne so, non lo so, Valerio, sai, a dire queste frasi del tipo. Queste frasi insopportabili, tipo. Sai, io sto leggendo Jodorowsky, dovresti leggere Jodorowsky. Ecco, ti prego, fammi un favore, Valerio, non leggiamo Jodorowsky. Ecco, è colpa sua se ci sono le capre sui flipper. No, non leggiamo Jodorowsky. No, guarda, io te lo prometto. No, guarda, Valerio, no, veramente? No, guarda, se me lo prometti tu, per il nuovo anno te lo prometto anch'io. No, davvero? No, promettiamocelo. Io e te non ci miglioriamo. Oh, lasciamoci perdere. Anzi, il nostro motto per l'anno nuovo deve essere meglio perdersi che trovarsi. No, non esiste, promesso. Grande, Valerio, grande. Ciao. Madonna, c'è una puzza in questa camera, veramente, ma sembra che ci abbiano girato il sequel del libro della giungla, ma che è? Ma poi io faccio anche le pulizie, io non riesco a capire, ma perché la mia esistenza deve sempre avere i contorni così raccapriccianti? Ma non... Che poi se ci pensi è un po' come la metro a Londra, no? Che c'è la vocina che dice mind the gap, please mind the gap, che significa ricordati il vuoto, no? Ecco, tu magari sei lì che stai passando un momento bello, ti stai divertendo, e proprio in quel momento da dentro senti la vocina mind the gap. Ecco, niente, è così, parlare di sé è un lungo tentativo di circunnavigare il nulla, che poi io se potessi non mi frequenterei, cioè in altre parole, se io non fossi costretto ad essere qualcuno per qualcuno, io mi accontenterei di non essere nessuno. Anzi, forse i periodi migliori della vita sono proprio quelli in cui uno si lascia perdere, ecco, forse il miglior modo di incontrare se stessi è darsi le spalle. Oh, Davide, no, non guarda Kafka, scusami, oggi proprio c'ho una giornata, non posso. Ce l'ho, tieniti. È la storia di uno che prova per tutto il tempo ad aprire la porta di un castello e alla fine scopre che la porta era aperta. Bello, eh? Non è una trama, Kafka. Cosa? Mia mamma. Vabbè, ho capito. Forse è così. Incontrare se stessi è un po' come un appuntamento al buio in cui di solito dopo tanta attesa non si presenta nessuno. Poi dice perché dovresti incontrare qualcun altro. È una scelta obbligata, cioè si parte dal fatto che da soli non si può essere. Neanche essere soli. Cioè anche per essere soli ci vuole qualcuno. Senza qualcuno non si è e basta. Ecco, paradossalmente il compendio di quello che penso sui rapporti sentimentali è che abbiamo bisogno di qualcuno per sentirci soli. Pesante, eh? Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, 2, 1 e auguri Valerio. Mamma, che bello passare il Capodanno qui con te, Valerio. No, io, cioè, davvero, quando sono con te sono sempre felice, spensierato, mi vengono sempre in mente solo pensieri allegri, felici. Ma lo sai che il farmaco più venduto in Italia è l'ansiolitico? E il secondo farmaco più venduto in Italia è l'antidepressivo. Ma ti vedo abbattuto, Valerio, come mai? Ah no, pensavo... No, perché sai, io avrei detto, che so, l'aspirina. Invece, vedi, la vita è sempre pronta a smentirti. Ma che faccio? Chiamo? O ci passo? No, sai, perché una cosa è dire passavo di là e un'altra è chiamare. Certo, tu mi dirai, passavi di là a Capodanno, un po' sfigato, cioè, fatti una vita, ecco. Buono il pandoro. Buono. Sai, Valerio, io la vedo così. A parte che non riuscirò mai a inghiottire questo pandoro. Cioè, questo è il sequel di Ovo Sodo. Dice di Virgino, di Davide, no? Ah, ma dai, è del Todis. Ecco, vedi, appunto. No, sai, io la vedo così. Niente, non ce la faccio. Pazzesco. Sai, io la vedo così. La vita è una cosa estremamente sopravvalutata. Cioè bisogna abbassare le aspettative, noi siamo partiti con le aspettative troppo alte. Ecco, secondo me è così, ognuno di noi è come se avesse fatto un patto col mondo nel momento in cui si nasce, no? E ogni tanto magari succede qualcosa di brutto e questo patto si rompe e uno valuta se fare un altro patto oppure dire vabbè, grazie a tutti, è stato bello, chiudiamo bottega. Ecco, secondo me noi non stiamo così male, Valerio, perché noi comunque questo patto col mondo, questo contratto, ogni volta lo firmiamo, per cui va bene. Solo che ogni volta che lo firmiamo, prima negoziamo a ribasso. Pesante, eh? Ah, la primavera, i fiori. Certo, è vera questa cosa che a Pasqua riusano i pandori per fare le colombe? C'ho ancora in bocca. Dunque... Vabbè, suono. No, non rispondeva nessuno. No, non rispondeva nessuno, Valerio. No, guarda, è inutile. No, è inutile che chiedi. No, Valerio. No, basta con questa cosa di fare una domanda per un'altra domanda. No, perché tu fai come la Chiesa Cattolica. Cioè, tu fai una domanda per un'altra domanda, ma la risposta già ce l'hai. Sì, certo, poi ci sono dei casi a cui a domanda non c'è risposta. Che ne so, per esempio, San Paolo, no? Non ci ha mai fatto caso che i corinzi non gli hanno mai risposto. Ma che problema ha? Cioè, sembra uno stalker dei nostri giorni, cioè te lo immagini in camera sua. Adesso scrivo la prima lettera ai corinzi, quelli... Niente. Ah, sì? Adesso la vedranno, adesso scrivo la seconda lettera ai corinzi, quelli... Ma sti cazzi, cioè, proprio... Ma sì, ma forse... Ma forse basta con il libero arbitrio. Ma basta anche con questi surrogati teologici del tipo il senso... Non c'è, sei tu che devi mettercelo un senso nelle cose, oppure sei tu che decidi chi devi essere. Basta, cioè, forse la fede forse è un surplus inutile in qualsiasi situazione. Cioè, non è che c'è bisogno di credere in qualcosa per poterla fare. Se no dice, per favore, lavi i piatti. Non ci credo abbastanza. Cioè, no. Che poi il rapporto con Dio è una cosa molto seria invece. Cioè, adesso ho capito. No, perché io per un sacco di tempo, Valerio, prima pensavo che la vita fosse molto simile a una lunga denuncia di smarrimento del libretto di circolazione, no? Per cui il mondo come una grande questura in cui al centro c'è seduto un incapace che è Dio, insomma, e tu sei lì a fare la denuncia, no? E quindi fai buonasera, dovrei fare la denuncia dei documenti. Non ce li ho i documenti, sono qui a fare la denuncia, documenti. Non ce li ho i documenti, devo fare la denuncia, documenti. Guardi, non ce li ho i documenti. Ma non dimmelo così, ecco, invece no, anche questi sono retaggi vecchi dell'Ottocento, del Novecento, questa continua sfida a Dio, Non so, prendi, che so, uno a caso, Stendhal. Ecco, lui diceva sempre che l'unica scusa di Dio è che non esiste. Ecco, io non sono d'accordo. Magari non è così, magari Dio è ateo, non crede in se stesso. Pesante, eh?